Tra le speranze svanite c'era l'aspettativa, la fiducia riposta nel fatto che il signor Bell avrebbe spiegato al signor Thornton la semplice realtà dei fatti avvenuti prima dello sfortunato incidente che aveva portato alla morte di Leonards. Margaret desiderava che qualsiasi opinione del signor Thornton, per quanto diversa potesse essere da quella di un tempo, fosse basata su una reale comprensione di ciò che aveva fatto e delle ragioni che l'avevano spinta. Sarebbe stata una soddisfazione per lei, l'avrebbe tranquillizzata su una questione che le avrebbe procurato inquietudine per tutta la vita, a meno che non fosse riuscita a decidere di non pensarci. Era passato così tanto tempo da quegli avvenimenti che non le restava più nessun altro modo possibile per spiegarli, dopo quello che aveva perso con la morte del signor Bell. Doveva soltanto rassegnarsi, come accade a molti altri, al fatto di essere stata fraintesa. Eppure, sebbene cercasse di convincersi che il suo non era un destino insolito, il cuore non le doleva di meno per l'ardente desiderio che un giorno, anni e anni da quel momento, in ogni caso prima di morire, lui potesse venire a sapere quanto fosse stata costretta a compiere quel gesto. Pensava di non voler sapere se l'intera spiegazione gli fosse stata data o meno, le bastava soltanto poter avere la certezza che prima o poi avrebbe saputo. Tuttavia, questo desiderio era vano, così come tanti altri, e una volta che riuscì a convincersene, si voltò con tutto il cuore e tutta la volontà verso la vita che l'aspettava e decise di impegnarsi per viverla al meglio. Se ne stava seduta per ore sulla spiaggia, fissando assorta le onde che si frangevano col loro moto perpetuo sulla riva ghiaiosa, oppure guardava in lontananza quelle che si gonfiavano all'orizzonte lontano e baluginavano sullo sfondo del cielo, e sentiva, senza essere consapevole di sentire, il sacro canto che saliva incessantemente. Si quietava senza sapere come o perché, sedeva lì per terra, apatica, abbracciando le ginocchia, mentre sua zia Shaw si dilettava in piccoli acquisti e Edith e il capitano Lennox cavalcavano in lungo e in largo sulla costa e nell'interno. Le bambinaie, passeggiando con i bimbi, passavano e ripassavano davanti a lei e si chiedevano, sussurrando, che cosa avesse trovato da guardare così a lungo, giorno dopo giorno. E quando la famiglia si riuniva all'ora di cena, Margaret era così silenziosa e assorta che Edith sosteneva fosse depressa e accolse con gioia una proposta di suo marito, ovvero quella di invitare il signor Henry Lennox per una settimana a Cromer a suo ritorno dalla Scozia in ottobre. Eppure, tutto questo tempo per riflettere permise a Margaret di collocare gli eventi riguardanti sia la vita passata che quella futura al loro giusto posto. Quanto a origine e significato, quelle ore in riva al mare non erano perse, come avrebbe potuto comprendere chiunque avesse avuto l'intuizione di scrutare o la premura di capire l'aspetto che il viso di Margaret stava gradualmente acquistando. Il signor Henry Lennox fu fin troppo colpito dal cambiamento. Il mare ha fatto immensamente bene alla signorina Hale, devo dire, commentò quando lei lasciò la stanza per prima dopo il suo arrivo in famiglia. Dimostra 10 anni in meno di quando era a Harley Street. È il cappellino che le ho regalato, disse Edith con aria trionfante. Appena l'ho visto, ho capito subito che le sarebbe stato bene. Perdonatemi, disse il signor Lennox con quel tono per metà sprezzante, per metà comprensivo che usava di solito con Edith, ma credo di saper distinguere il fascino dell'abito dal fascino della donna. Nessun semplice cappellino avrebbe reso gli occhi della signorina Hale così lucenti e allo stesso tempo così teneri, o le sue labbra così rosse e piene, e tutto il suo viso disteso e luminoso. È come, ma anche di più, abbassando la voce, come la Margaret Hale di Helston. Da quel momento, quell'uomo brillante e ambizioso indirizzò tutte le sue forze per conquistare la giovane. Amava la sua dolce bellezza. Vedeva l'estensione latente del suo pensiero che poteva facilmente, pensava, essere portato ad abbracciare tutti gli obiettivi che lui si era messo in cuore. Considerava la sua fortuna solo come una parte del nobile insieme della sua posizione e della sua persona, pur essendo del tutto consapevole che gli avrebbe istantaneamente consentito di elevarsi dalla sua condizione di semplice avvocato. Alla fine avrebbe ottenuto un tale successo e tali onori da permettergli di restituirle con gli interessi quel primo anticipo di ricchezza di cui lui le sarebbe stato debitore. Era stato a Milton per affari legati alle sue proprietà, ritornando dalla Scozia, e con l'occhio acuto di un abile avvocato, sempre pronto a cogliere gli imprevisti e a soppesarli, aveva visto che i terreni e gli immobili in affitto che lei possedeva, in quella città ricca e in piena espansione, aumentavano ogni anno in valore. Fu lieto di scoprire che l'attuale relazione esistente fra loro, di cliente e consulente legale, stava gradualmente sostituendo il ricordo di quel malaugurato e disastroso giorno a Helston. Aveva infatti l'inconsueta opportunità di avere un rapporto più intimo con lei, ben oltre quello motivato dal legame tra le famiglie. Margaret era semplicemente troppo contenta di ascoltarlo finché parlava di Milton, sebbene non avesse incontrato nessuna delle persone che lei in particolare conosceva. Il piacere era dovuto al tono di disprezzo e spregio che avevano sua cugina e sua zia quando parlavano di quella città, proprio quei sentimenti che Margaret si vergognava di ricordare perché lei stessa li aveva espressi e provati inizialmente, quando era andata a vivere lì. Ma il signor Lennox quasi superava Margaret nell'apprezzare le qualità di Milton e dei suoi abitanti. La loro energia, la loro forza, il loro indomito coraggio nel lottare e combattere, l'intensità delle loro vite lo affascinava e catturava la sua attenzione. Non si stancava mai di parlare di loro e non aveva mai avuto la percezione di quanto si ponessero obiettivi troppo egoistici e materiali per dimostrare tutta la loro potenza, instancabili nei loro sforzi finché Margaret, seppur nel bel mezzo del suo compiacimento, aveva il candore di sottolinearlo come una macchia peccaminosa in tutto ciò che rimaneva comunque nobile e che andava ammirato. Tuttavia, quando altri argomenti le diventavano noiosi e non dava che brevi risposte alle sue numerose domande, Harry Lennox scoprì che chiederle qualcosa sulle peculiari caratteristiche del Darkshire le faceva tornare la luce negli occhi e il rossore sulle guance. Al loro ritorno in città, Margaret soddisfò uno dei suoi propositi espressi in riva al mare e prese in mano la sua vita. Prima di andare a Cromer era sottostata alle regole di sua zia, come se fosse ancora la piccola estranea impaurita che aveva pianto fino a quando non si era addormentata quella prima notte nella cameretta di Harley Street. Tuttavia aveva capito in quelle solenni ore trascorse a pensare che un giorno avrebbe dovuto rispondere della propria vita e di ciò che ne aveva fatto, e cercò di risolvere quello che è il problema più difficile per le donne, ovvero quanta parte di sé dovesse annullare per obbedire all'autorità e quanta se ne potesse riservare per agire liberamente. La signora Shaw era un modello di pazienza ed Edith aveva ereditato questa affascinante qualità domestica. Margaret probabilmente aveva il carattere peggiore delle tre, perché il suo fine intuito e la fervida immaginazione la rendevano precipitosa e il suo precoce isolamento dagli affetti l'aveva resa orgogliosa. Tuttavia aveva un'indescrivibile dolcezza puerile che un tempo aveva reso i suoi modi, anche nei rari momenti di ostinazione, irresistibili. E ora, frenata ulteriormente da quella che tutti chiamavano la sua bella fortuna, ammaliava la riluttante zia, facendole accettare la sua volontà. Così Margaret ottenne che le venisse riconosciuto il diritto di seguire le proprie idee riguardo ai doveri. «Solo non essere così risoluta», supplicò Edith. «La mamma vuole che tu abbia un valletto personale e non ti sarà difficile trovarlo, visto che ce n'è un'infinità. Solo per farmi contenta, tesoro, non mostrarti troppo determinata. È l'unica cosa che chiedo. Valletto o non valletto, non essere così risoluta». «Non preoccuparti, Edith. Alla prima occasione sverrò tra le tue braccia mentre i domestici sono impegnati a cenare. E poi, come faresti con Sciolto che gioca con il fuoco e il piccolo che piange? Inizierai a desiderarla una donna risoluta all'altezza di ogni emergenza. E non smetterai di scherzare ed essere gioiosa?» disse Edith. «Non io. Sarò più gioiosa di quanto non sono mai stata adesso che ho trovato la mia strada. E non ti monterai la testa e mi permetterai comunque di acquistarti degli abiti?» «A dire il vero intendo acquistarmeli da sola. Puoi venire con me se ti va, ma l'acquisto non potrà soddisfare altri che me.» «Oh, temevo che avresti indossato abiti di color marrone e grigio polvere per non far notare come li sporcherai andando in giro in tutti quei posti. Sono contenta che tu voglia mantenere qualche vanità, giusto una piccola traccia di debolezza umana.» Ho intenzione di restare sempre la stessa, Edith, se tu e mia zia riuscite a immaginarmi così, solo che non avendo né un marito né un figlio a dettare i miei doveri naturali, devo farlo da sola, oltre a ordinarmi i vestiti. Nella riunione privata di famiglia a cui presero parte, Edith, sua madre e suo marito, si convenne che forse tutti questi suoi progetti l'avrebbero legata ancora di più a Henry Lennox. La tenevano a distanza dagli altri amici, cui figli o fratelli potevano essere dei buoni partiti, e si riconobbe che Margaret non pareva gradire la compagnia di altri che Harry, al di fuori della sua famiglia. Gli altri ammiratori, attratti dalla sua bellezza o dalla sua stimabile fortuna, venivano spazzati via da quel suo inconsapevole sprezzo nel modo di sorridere e indirizzati verso strade frequentate da altre bellezze meno antipatiche o da altre ereditiere più facoltose. Harry e Margaret lentamente diventarono amici sempre più intimi, tuttavia entrambi non tolleravano la minima intromissione nei reciproci affari. 50. Cambiamenti a Milton. Nel frattempo a Milton le ciminiere continuavano a fumare. Il costante ruggito delle macchine, il loro possente ritmo, il loro frastornante, vorticoso movimento lottavano e si dibattevano incessantemente. Insensate e inutili erano le perpetue fatiche di legno, ferro e vapore, ma la perseveranza del loro monotono lavoro era eguagliata dall'instancabile sforzo delle moltitudini di uomini forti che con coscienza e con determinazione erano irrequieti e impegnati a cercare. Ma cercare cosa? Per le strade c'erano pochi perditempo, nessuno camminava per mero piacere, il viso di ogni uomo era segnato dalla fretta e dalla preoccupazione, le notizie venivano cercate con un'avidità feroce e gli uomini sgomitavano e si spingevano nel mercato oppure in borsa come facevano nella vita, nel profondo egoismo della competizione. Un'aria di desolazione aleggiava in città, pochi venivano a comprare e quelli che lo facevano erano guardati con sospetto dai venditori, perché il credito era instabile e anche quello più stabile poteva essere danneggiato dai traffici mercantili nel porto vicino. Fino a quel momento non si erano verificati fallimenti a Milton. Tuttavia, viste le enormi speculazioni che si era scoperto fossero finite male in America e persino in paesi ben più vicini, tutti sapevano che alcune imprese della città dovevano averne risentito a tal punto che ogni giorno gli sguardi, se non proprio le voci, chiedevano: ci sono novità? Chi è fallito? Come mi influenzerà? E se erano in due o tre a ritrovarsi a parlarne, si soffermavano sui nomi di quelli che erano salvi, piuttosto che arrischiarsi ad alludere a quelli che, secondo loro, più probabilmente sarebbero finiti in bancarotta. Perché un soffio innocuo poteva, in tempi come questi, distruggere certi industriali che altrimenti sarebbero potuti uscire indenni dalla tempesta. E uno solo che fosse affondato se ne sarebbe tirato dietro tanti altri. Thornton è salvo, dicevano, i suoi affari vanno bene, crescono ogni anno e ha la testa sulle spalle, è prudente in ogni situazione rischiosa. Poi un uomo ne tirò uno da parte, distanziandosi un po' dagli altri e avvicinando la testa all'orecchio del suo vicino. Commentò: Thornton ha una grande impresa, ma ha speso i suoi profitti per espanderla, non ha capitale da parte. Ha comprato nuovi macchinari in questi 2 anni e gli sono costati, non diciamo quanto, chi vuole intendere, intenda. Ma quel Harrison era un uccello del malaugurio, un uomo che aveva ereditato dal padre la fortuna realizzata con il commercio e aveva paura di perderla, modificando la propria strategia per ambire a prospettive più vaste. Eppure invidiava ogni soldo fatto da altri più coraggiosi e lungimiranti di lui. Tuttavia era vero che il signor Thornton fosse decisamente sotto pressione. Lo sentiva soprattutto nel punto in cui era più vulnerabile, il suo orgoglio nella reputazione commerciale che aveva ottenuto con il proprio sudore. Artefice delle sue proprie ricchezze, attribuiva ciò non a particolari meriti o a qualità che possedesse, ma alla forza che credeva che il commercio dava a ogni uomo coraggioso, onesto e perseverante, di elevarsi a un livello dal quale poteva vedere e giocare la grande partita del successo e, con onestà, grazie a questa lungimiranza, disporre di più potere e influenza che in qualsiasi altro modo nella vita. Lontano, in Oriente e in Occidente, dove non sarebbe mai stato conosciuto di persona, il suo nome doveva essere rispettato, i suoi desideri venire esauditi e la sua parola valere oro. Questa era l'idea di commercio con cui il signor Thornton era partito. I suoi mercanti siano come principi, diceva sua madre, leggendo il testo ad alta voce, come fosse uno squillo di tromba che chiamava il figlio alla battaglia. Non era che uguale a tanti altri, uomini, donne e bambini, conscio delle cose lontane e indifferente a quelle vicine, ambiva ad avere un nome influente in paesi stranieri e mari lontani. A diventare il capo di un'impresa che sarebbe stata famosa per generazioni e gli c'erano voluti lunghi anni di anonimato per arrivare anche solo a un barlume di ciò che poteva essere ora, in quell'istante, in quella città, nella sua fabbrica, tra la sua gente. Thornton e Higgins, fino a quell'incontro fortuito, o che perlomeno tale sembrava, avevano condotto esistenze parallele, vicinissime, ma che non si erano mai sfiorate. Ritrovatisi faccia a faccia, uomo a uomo, uno come Thornton e uno appartenente proprio a quella massa che lo circondava e, cosa da notare, svestendo entrambi i loro ruoli di padrone operaio, avevano iniziato a riconoscere che noi uomini abbiamo tutti un unico cuore. Non fu che l'inizio, e finora, quando il timore di perdere il rapporto con due o tre degli operai che così di recente aveva iniziato a conoscere come uomini, poiché un paio di progetti che gli stavano molto a cuore erano stati rudemente stroncati senza alcuna sperimentazione, aveva dato una nuova intensità alla subdola paura che lo coglieva di tanto in tanto finora. Thornton non si era mai reso conto di quanto fosse grande e profondo l'interesse che negli ultimi tempi aveva iniziato a nutrire per la sua professione di industriale, semplicemente perché lo portava a un contatto così ravvicinato e gli dava l'opportunità di così tanto potere su una razza strana, scaltra, ignorante, ma soprattutto piena di carattere e umanità. Riesaminò la sua posizione di industriale di Milton. Lo sciopero di un anno e mezzo prima, o più, dato che il tempo era prematuramente invernale a primavera inoltrata, quello sciopero, quando era giovane, perché adesso si sentiva vecchio, gli aveva impedito di portare a termine alcuni grossi ordini che all'epoca aveva per le mani. Aveva investito una buona parte del suo capitale in nuovi e costosi macchinari. E aveva anche acquistato cotone in grande quantità per la realizzazione delle commesse impegnate da contratto. Il fatto che non fosse stato in grado di soddisfarli era dovuto in parte alla totale incapacità della manodopera irlandese. Gran parte dei prodotti che realizzavano erano fallati o inadatti alla vendita per un'impresa che si vantava di immettere sul mercato solo articoli di prima qualità. Per parecchi mesi il disagio causato dallo sciopero aveva ostacolato la strada di Thornton e spesso, quando il suo sguardo cadeva su Higgins, avrebbe potuto parlargli con rabbia, senza una ragione, soltanto perché sentiva la gravità del danno nato da quella faccenda in cui era stato coinvolto. Tuttavia, quando si accorgeva di questo improvviso e repentino risentimento, riusciva a controllarlo. Evitare Higgins non lo avrebbe appagato. Doveva convincersi che sapeva dominare la rabbia, facendo particolare attenzione a permettere a Higgins di avvicinarglisi tutte le volte che le rigide leggi della fabbrica o il tempo libero di Thornton lo permettevano. E col tempo perse ogni traccia di rancore nel chiedersi come fosse possibile o come solo potesse esserlo che due uomini come loro, che vivevano dello stesso commercio, lavorando ciascuno a suo modo per lo stesso scopo, riuscissero a considerare le rispettive posizioni e i rispettivi doveri in un modo così stranamente diverso. E così nacque quel rapporto che magari non avrebbe potuto prevenire all'occorrenza tutti i futuri scontri d'azione ed opinione, ma ad ogni modo avrebbe consentito sia al padrone che all'operaio di giudicarsi con più benevolenza e comprensione e di sopportarsi con più pazienza e rispetto. Oltre a questo progresso, nei sentimenti, sia Thornton che i suoi operai si scoprirono ignoranti in merito a questioni pratiche e reali, fino a quel momento note soltanto a una parte, ma non all'altra. Ma ora era arrivato uno di quei periodi neri per il commercio, quando il mercato a ribasso faceva scendere il valore di tutte le grandi giacenze, il valore di quelle di Thornton si dimezzò. Non arrivavano commesse, sicché perse i proventi del capitale che aveva investito nelle macchine, era effettivamente difficile ottenere il pagamento degli ordini consegnati e poi c'erano le ingenti spese per mandare avanti l'azienda. Oltre a ciò, dovette pagare le fatture del cotone che aveva comprato e, avendo poco denaro, poté soltanto chiedere dei prestiti con interessi esorbitanti, mentre non riusciva a far fruttare nessuno dei suoi beni. Ma non si disperò. Giorno e notte si sforzava di prevedere e provvedere a tutte le emergenze. Con le donne di casa era calmo e gentile come non lo era mai stato. Agli operai in fabbrica rivolgeva poche parole, ma ormai sapevano com'era fatto e, vedendolo schiacciato dall'ansia, accoglievano le sue risposte secche e decise con comprensione, piuttosto che con l'ostilità repressa che in passato avevano covato, ed erano anzi preparati a sentire frasi offensive e giudizi spietati in ogni occasione. Il padrone deve darsi una bella calmata, disse Higgins un giorno, sentendolo chiedere in modo brusco perché un suo ordine non era stato eseguito. Colse il suono del muto sospiro che fece attraversando la stanza dove alcuni operai stavano lavorando. Higgins e un altro uomo si trattennero diverse ore in più quella sera senza che nessuno ne fosse al corrente per finire quel lavoro incompiuto. E il signor Thornton non seppe mai che era stato qualcun altro e non il sorvegliante al quale aveva dato inizialmente l'incombenza a portarlo a termine. Lo so io chi si sarebbe dispiaciuto di vedere il nostro padrone lì, seduto come un pezzo di calicò grigio. A quel vecchio parroco gli si spezzava il cuore come a una donna se vedeva l'aria triste che ho visto sulla faccia del nostro padrone, pensò Higgins un giorno mentre si avvicinava al signor Thornton in Marlborough Street. Padrone, disse, fermando il datore di lavoro che camminava con passo veloce e deciso e facendolo trasalire con un certo fastidio mentre alzava lo sguardo come se i suoi pensieri fossero stati molto lontani. Avete avuto notizie della signorina Margaret di recente? La signorina chi? Rispose il signor Thornton. La signorina Margaret, la signorina Hale, la figlia del vecchio parroco. Sapete bene chi intendo, se solo ci pensate un attimo. Non c'era nulla di poco rispettoso nel tono in cui ciò venne detto. Oh sì! E improvvisamente quell'aria preoccupata, gelida e glaciale, se n'era andata dal volto del signor Thornton, che, come se qualche leggero venticello estivo avesse soffiato via dalla sua mente tutta l'inquietudine. E sebbene le sue labbra fossero ancora strette, gli occhi sorridevano benevoli al suo interlocutore. È la mia padrona di casa adesso, sai, Higgins? Ogni tanto il suo amministratore mi racconta qualcosa. Sta bene ed è tra amici. Grazie, Higgins. Quel grazie, rimasto sospeso dopo le altre parole, e che allo stesso tempo era stato detto con un tale caloroso affetto, illuminò la mente acuta di Higgins con una nuova intuizione. Magari sarebbe stato soltanto un fuoco fatuo, ma pensò di seguirlo e di vedere dove lo avrebbe portato. E non si è sposata, padrone? Non ancora. Il suo volto si incupì nuovamente. Se ne parla, da quanto ho capito, con un amico di famiglia. Allora mi sa che non ha intenzione di ritornare a Milton. No. Fermatevi un minuto, padrone. Dopodiché, avvicinandosi a lui in modo confidenziale, gli disse: È stato discolpato il giovane? Rafforzò la complicità di quella confidenza strizzando l'occhio, il che non fece altro che rendere la cosa ancora più incomprensibile a Thornton. Intendo il giovane signore, il padroncino Frederick, come lo chiamavano loro, suo fratello, che è stato qui, sapete? Qui? Già, sono sicuro, quando la madre è morta. Quello che dico è vero, perché io e Mary lo sapevamo tutto il tempo, solo che ce ne siamo stati zitti perché Mary lavorava nella casa. Ed era qui! Era suo fratello! Certo che sì, pensavo che lo sapevate, o non me lo sarei mica fatto scappare. Sapevate che aveva un fratello? Sì, so tutto di lui, ed è stato qui quando è morta la signora Hale. No, non voglio dire altro. Forse li ho già messi nei guai, perché per loro è un grande segreto. Volevo solo sapere se l'avevano discolpato. Non che io sappia. Non ne so niente. Tutto quello che riguarda la signorina Hale adesso vengo a saperlo in quanto è la mia padrona di casa e solo attraverso il suo avvocato. Si separò da Higgins per continuare a riflettere a testa bassa sulla questione a cui pensava prima che quest'ultimo gli si avvicinasse, lasciando Higgins deluso a quel suo tentativo. Era suo fratello, si disse il signor Thornton. Oh, sono felice. Potrei non rivederla mai più, ma è un conforto, un sollievo saperlo. Sapevo che non poteva essersi comportata in modo indecoroso e allo stesso tempo ne bramavo una conferma. Adesso sono felice. Un sottile filo dorato percorse l'oscura rete delle sue attuali sorti, che stavano diventando sempre più scoraggianti. Il suo amministratore aveva investito ingenti risorse su un'azienda che commerciava con l'America, che fallì insieme a molte altre proprio nello stesso momento, come in un mazzo di carte, la caduta di una comporta quella di tutte le altre. A quanto ammontavano gli obblighi di Thornton? Rischiava qualcosa? Notte dopo notte si portava nella stanza registri e carte e stava seduto lì per parecchie ore, molto dopo che la famiglia era andata a letto. Pensava che nessuno sapesse che occupava in tal modo le ore che avrebbe dovuto dedicare al sonno. Una mattina, mentre la luce del giorno si insinuava attraverso le fessure delle persiane, e lui non era nemmeno andato a dormire e stava pensando, ormai sconsolato e indifferente a tutto, di poter fare a meno di quell'ora o due di riposo, che era tutto ciò che si poteva permettere prima del trambusto di una nuova giornata di lavoro, la porta della camera si aprì e vide sua madre lì in piedi con indosso lo stesso abito del giorno prima. E anche lei si era coricata per la notte. I loro occhi si incontrarono, i loro visi erano provati, rigidi e pallidi per la lunga veglia. Madre, perché non siete a letto? John, figlio mio, disse lei, pensi che riesca a dormire tranquilla mentre tu rimani in piedi così angustiato? Non mi hai detto che cosa ti preoccupa, ma sei stato estremamente inquieto negli ultimi giorni. Il commercio va male. E tu temi? Non temo nulla, rispose sollevando la testa e tenendola ben dritta. Adesso so che nessun uomo ci rimetterà per causa mia. Era questa la mia angoscia. Ma cosa pensi? Dovrai dichiarare fallimento? La sua voce ferma tremava in modo insolito. Non un fallimento, devo chiudere l'attività, ma pagherò tutti gli operai. Forse potrai salvarmi. Sono molto tentato. Come? Oh, John, tieni alto il tuo buon nome, corri tutti i rischi per farlo. Come potresti salvarti? Con una speculazione che mi è stata offerta, molto rischiosa, ma se andasse bene mi farebbe restare a galla, così nessuno verrebbe mai a sapere in quali ristrettezze mi trovo. Tuttavia, se va male. E se andasse male, disse sua madre, avanzando verso di lui e posandogli una mano sul braccio con occhi ardenti, trattenne il respiro per sentire la fine del suo discorso. Degli uomini onesti saranno rovinati da un farabutto, disse con voce affranta. Nella posizione in cui sono ora, i soldi dei miei creditori sono al sicuro, ogni centesimo, ma non so dove trovare i miei. Potrei aver perso tutto ed essere in questo momento al verde, quindi i soldi che dovrei rischiare sarebbero quelli dei miei creditori. Ma se andasse bene, non lo saprebbero mai. È una speculazione così pericolosa? Sono certa che non lo sia, altrimenti non ci avresti mai pensato. Se andasse bene, sarei un uomo ricco e la mia coscienza non conoscerebbe più pace. Perché? Non faresti del male a nessuno? No, ma avrei corso il rischio di rovinare molte persone per il mio misero profitto. Madre, ho deciso. Non vi addolorerà troppo lasciare questa casa, vero, madre cara? No. Ma mi spezzerebbe il cuore vederti diverso da come sei. Che cosa puoi fare? Essere sempre lo stesso John Thornton in qualsiasi circostanza. L'uomo che si sforza di agire correttamente, andando incontro a grandi cantonate, e che poi cerca di trovare il coraggio per ricominciare da capo. Ma è difficile, madre. Ho lavorato tanto, ho fatto tanti progetti, ho scoperto nuove possibilità nella mia professione troppo tardi e adesso è tutto finito. Sono troppo vecchio per ricominciare con lo stesso spirito. Oh, è difficile, madre. Si allontanò da lei, coprendosi il volto con le mani. Non riesco a capire, disse lei con un amaro tono di rivalsa, come sia successo. Ecco qui il mio ragazzo, un bravo figlio, un uomo giusto con un buon cuore, che fallisce in ogni obiettivo, trova una donna da amare e a lei non importa nulla del suo affetto, come se fosse stato uno dei tanti. Si dà da fare e la sua fatica non porta a niente. Le altre persone hanno successo e si arricchiscono e tengono i loro miseri nomi lontano dalla vergogna. La vergogna non mi ha mai toccato, disse lui con voce bassa. Ma lei continuò. Talvolta mi sono chiesta dove fosse finita la giustizia e adesso non riesco nemmeno a credere che esista. Ora che sei arrivato a questo punto, tu, il mio John Thornton, anche se tu e io dovessimo andare a mendicare insieme, caro figlio mio, appoggiò al suo collo la testa e lo baciò tra le lacrime. Oh, madre, disse lui, tenendola teneramente tra le braccia, chi ha deciso il destino della mia vita, sia nel bene che nel male? Lei scosse il capo, non voleva avere nulla a che fare con la religione in quel preciso momento. Madre, continuò vedendo che lei non parlava, anch'io mi sono opposto, ma mi sto sforzando di non farlo più. Aiutatemi come mi aiutavate da bambino. Allora mi dicevate tante parole giuste quando mio padre morì e soffrivamo sconsolati. E non sarà lo stesso questa volta. Dicevate parole coraggiose, nobili, colme di speranza, allora, madre mia, che non ho mai dimenticato, anche se magari sono rimaste assopite. Parlatemi ancora come facevate un tempo, madre. Non costringiamoci a pensare che il mondo abbia indurito troppo i nostri cuori. Se direte quelle parole antiche e buone, sentirò un po' di quella semplice devozione della mia infanzia, me le ripeterei da solo, ma dette da voi avrebbero un suono diverso, ricordandomi tutte le angosce e le prove che avete dovuto sopportare. Sono state tante, disse singhiozzando, ma nessuna dolorosa come questa. Vederti declassato dal posto che ti spetta di diritto. Potrei ammetterlo se capitasse a me, John, ma non a te, non a te. Dio ha ritenuto giusto essere molto duro con te, troppo duro. Tremava tutta per i singhiozzi, che sono ancora più convulsi quando si tratta di una persona anziana. Il silenzio che la circondava finalmente ebbe effetto su di lei e si acquietò per ascoltare. Nessun rumore. Guardò il figlio seduto alla scrivania, le braccia appoggiatevi per metà sopra e la testa rivolta verso il basso. Oh, John, disse sollevandogli il viso, appariva così segnato e pallido che per un attimo vi lesse un presagio di morte. Tuttavia, non appena la rigidità di quell'espressione si sciolse e il colorito ritornò normale, e vide che era di nuovo lui, tutta la mortificazione del mondo sprofondò nel nulla di fronte alla consapevolezza della benedizione che la sua semplice presenza significava per lei. E ringraziò Dio per questo, e soltanto per questo, con un tale fervore che tutti i pensieri ribelli vennero spazzati via dalla sua mente. Il figlio non parlò subito, andò ad aprire le imposte lasciando che la luce rossastra dell'alba inondasse la stanza, ma il vento soffiava a est, il freddo era pungente come da settimane ormai, non ci sarebbe stata nessuna richiesta di indumenti estivi quell'anno. La speranza della ripresa del commercio doveva essere completamente abbandonata. Gli fu di grande conforto la conversazione con la madre. E lo rese sicuro del fatto che anche se da quel momento in poi non avessero più parlato di tutte quelle preoccupazioni, avrebbero compreso i loro reciproci sentimenti e sarebbero stati, se non proprio in armonia, almeno non in disaccordo nel modo di considerarle. Il marito di Fanny era seccato per il rifiuto di Thornton di prendere qualche quota nella speculazione che gli aveva proposto e ritrattò ogni possibilità di essere in grado di aiutarlo con denaro contante, di cui di fatto lo speculatore aveva bisogno per la sua rischiosa operazione. Alla fine non restò altro da fare, se non quello che il signor Thornton per settimane aveva scongiurato. Dovette chiudere l'impresa nella quale si era impegnato per così tanto tempo e da cui aveva ottenuto così tanto onore e successo, e guardarsi in giro per trovare un impiego da dipendente.